no, no, no, no. Questa, questa sentenza cade sopra di me, che ne son degno. Io fui la rea c'uccider volli l'innocente Popea. Innocente, innocente costi, io con le vesti di Drusilla andai, per ordine d'Ottavia imperatrice, a tententar la morte di Popea. Dammi, dammi, signor, con la tua man la morte. Vivi alla fama della mia clemenza, vivi alla gloria della tua fortezza, e sia del sesso il tuo, del secco il nostro, la tua costanza, la tua costanza, una donna. Non son punito, anzi beato, anzi beato, anzi beato. Libe tutti costi saranno ricchezze e gloria, libe tutti costi saranno ricchezze e gloria ai giorni. Gli occhi illuminati. serremo. Per te, mio, non ho più cuore. Tornerò a riperdermi per me.